Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa, con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ecco noi Maurizio Bongioanni. Per quanto riguarda il suo documentario Isla Fran, storia di una formazione partigiana, che sarà al Cinema Moretta di Alba il prossimo 18 aprile. Maurizio, ben trovato e ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Ci racconti un po' di questa storia? Beh sì, il documentario è, diciamo, fresco di montaggio e l'abbiamo finito poche settimane fa. E racconta appunto di un episodio della storia della Resistenza poco conosciuto, ambientato nella mia zona. Io vivo ad Alba, quindi nel pieno delle Langhe, e durante gli anni 40, durante gli anni della Resistenza, c'è stata una formazione che ha messo insieme partigiani di nazionalità diverse, anche poco ordinarie dalle nostre parti. Parlo di partigiani slavi, francesi, russi e ovviamente italiani, che si sono messi insieme per combattere contro le barbarie nazifasciste. Una sorta di brigata internazionale. È esattamente una brigata internazionale che però non è stata, diciamo, riconosciuta come si meritava, ecco, e anzi la sua storia è caduta nel dimenticatoio, se non grazie a una ricerca del figlio di uno di questi partigiani, Ezio Zubbini, che è il protagonista di questo documentario, che ci racconta un po' come è nata la sua ricerca e quindi come è arrivato a raccogliere del materiale, a pubblicare un libro che si è autopubblicato, quindi che in questo momento non è neanche stato pubblicato da una casa editrice, ma se l'è autopubblicato lui. E quindi una storia che continua ancora adesso, a distanza di tutti questi anni, a incontrare un po' di difficoltà nel venire fuori. Senti, di quanti elementi constava la formazione? Beh, la brigata non era molto grossa, c'erano una ventina di persone, ma diciamo che negli anni è cambiato un po' come gruppo, nel senso che inizialmente tutto è partito da una figura, Eugenio Stipcevic, che era stato imprigionato dai fascisti durante i rastrellamenti in Jugoslavia, e trasportato in un carcere in Piemonte, in provincia di Cuneo, a Fossano. Da lì, con l'8 settembre, Stipcevic è scappato insieme ad altri partigiani, si è rifugiato nelle Langhe, qui ha incontrato un francese e insieme hanno creato questa brigata, che ha poi intercettato altri partigiani che stavano scappando verso la Liguria, sempre slavi e francesi. In realtà di francese nell'Isla Fran ce ne sarà uno solo, che scriverà un diario molto importante, poi infatti è un documento molto importante per la ricerca che ha fatto Zubbini, però c'erano anche altre formazioni partigiane di francesi nella nostra zona, però quella dell'Isla Fran si è, oltre alla presenza appunto, la maggior parte dei partigiani erano slavi. Questo raggruppamento si è distinto perché era particolarmente bravo nelle azioni sul campo, quindi è riuscito in quegli anni a conquistare, diciamo, sul campo a vincere delle battaglie contro i nazisti e i fascisti, e questo era molto importante per quell'epoca, e nonostante questo questi episodi non sono stati raccontati, oppure se ne trovano dei frammenti qua e là in testi di ricerca, ma mai nessuno che ha approfondito questa storia. Ezio Zubbini stesso aveva suo padre era di origine slava, si chiamava Zubcic, è venuto ad Alba a fare il professore, ha dovuto italianizzare il cognome che è diventato Zubbini, e lo stesso Ezio, il figlio di questo partigiano, fino agli anni 70 non conosceva questa storia, l'ha scoperto quando il padre ha avuto delle difficoltà nel ricevere la pensione da partigiano che gli spettava. Perché lo stesso padre, finita la guerra, non è stato riconosciuto come partigiano, come tanti dell'Isla Fran. Addirittura tanti partigiani dell'Isla Fran sono stati tacciati di essere dei collaborazionisti con i fascisti. Lo stesso Stipcevic, che era il comandante slavo della brigata Isla Fran, è stato espulso da qua, tornato in Jugoslavia, è stato imprigionato come stalinista dal governo di Stalin. Cioè, una storia veramente incredibile, che ancora adesso non ha avuto il suo riscatto, ecco. Ed è per questo che leggendo il libro e parlando con ex Zubini mi è venuta voglia di raccontare attraverso un film, un documentario, che è un documentario che dura 30 minuti, quindi non è lunghissimo, però in 30 minuti raccolgo un po' quelle che sono le informazioni salienti di questa storia, perché davvero sembra incredibile, ma così è. Senti, dall'armistizio fino a quando è rimasta attiva la formazione? La formazione è stata attiva fino al 25 aprile, quindi fino alla liberazione nel 45. Addirittura lo stesso giorno c'è stato ancora un fatto, sempre avvenuto nelle nostre zone, in cui persero la vita dei partigiani slavi proprio il giorno della liberazione. Queste persone si ritrovano sulle lapidi nella nostra zona, ma sono, come dire, insieme ad altri partigiani garibaldini, e se nessuno ci fa caso, oggi una di queste cittadine dove si è visto la presenza degli Isla Fran che si sono spostati sul territorio, vicino a queste lapidi c'è una grossa balconata dove oggi la gente va per bere, per fare gli aperitivi. Su queste lapidi ci sono i nomi dei partigiani italiani e slavi messi insieme, e però nessuno ci fa caso, nessuno si è mai chiesto: cavolo, ma qui ci sono dei nomi slavi, chissà da dove vengono. Ebbene, quei partigiani lì sono i partigiani dell'Isla Fran, e Isla Fran, insomma, sta per è un acronimo che sta per i italiani, slavi e Fran, francesi ovviamente. Sì. Maurizio, ci dai tutti i riferimenti internet per avere maggiori informazioni sia sul libro che sul tuo documentario? Allora, su internet ci stiamo attrezzando, nel senso che per ora le uniche pagine su cui trovare delle informazioni sono le pagine Facebook. C'è la pagina Facebook di Ezio Zubini, Isla Fran, dove Ezio continua a postare foto, immagini da formazione, ovviamente, dove è pubblicizzato anche il documentario, altrimenti attraverso la mia pagina Facebook, dove ho iniziato a pubblicizzare questo primo evento, quello di Alba al Cinema Moretta, che è la prima visione in assoluto di questo documentario, ma già nelle prossime settimane il documentario incomincerà a girare perlomeno nella provincia di Cuneo, poi spero di portarlo anche altrove, quindi Torino e nel resto, chissà, magari anche nel resto d'Italia. Benissimo, allora ricordiamo questo appuntamento con Isla Fran, storia di una formazione partigiana, documentario che sarà proiettato al Cinema Moretta di Alba il prossimo 18 aprile. Un ringraziamento e un saluto a Maurizio Bongioanni, che ne è il regista, e un in bocca al lupo e a presto. Sì, grazie mille, ci tengo solo anche a ringraziare Daniele Ferrero, che è stato il operatore che mi ha dato una grande mano in questo film. Benissimo, a presto Maurizio. Grazie, ciao a tutti. Siamo in collegamento telefonico con il Nuovo Cinema Palazzo, dove domani ci sarà un'iniziativa, un incontro e proiezione del film Il giovane Karl Marx. Intanto benvenuto. Buonasera a tutti quanti. Allora, ci racconti di questa iniziativa? Allora, questa iniziativa diciamo che nasce dalla collaborazione tra il Festival di Storia del Cinema Palazzo e il portale Dinamo Press. Noi appunto da anni al Cinema Palazzo abbiamo questo progetto del Festival di Storia e una delle questioni diciamo, su cui abbiamo cercato di lavorare è proprio utilizzare linguaggi differenti per raccontare un fatto o un fenomeno storico. Per questo sin appunto dall'inizio, da quando abbiamo saputo dell'uscita di questo film, ci siamo molto interessati. E appunto abbiamo sin da subito lavorato per costruire un appuntamento di presentazione di questo interessante film, ma anche di ragionamento intorno alla figura di Max e per quanto riguarda il Festival di Storia per approfondire anche la funzione del cinema come strumento per la trasmissione e l'approfondimento della storia. Ok, senti, come è strutturata l'iniziativa? Allora, l'iniziativa prevede un dibattito alle ore 20, sempre al Cinema Palazzo, a cui parteciperanno Augusto Illuminati di Dinamo Press, il professor Cristian Uva del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo di Roma 3 e direttore della rivista Cinema e Storia. Poi ci sarà il grande Federico Raponi di Tutta Scena Cinema di Radio Onda Rossa e Francesco Raparelli delle Camere del Lavoro Autonomo e Precario. Quindi diciamo, noi cercheremo appunto di analizzare un po' dai diversi punti di vista il film, ma anche l'opportunità appunto per ragionare sul rapporto fra cinema e storia. Ok, e dopo la proiezione ci sarà anche la possibilità di parlare con chi ha assistito al film. Assolutamente sì, infatti facciamo un appello, diciamo, a tutti quanti ad arrivare puntuali perché il film dura quasi 2 ore e noi appunto cercheremo di fare una presentazione precedente al film, la proiezione del film e poi una piccola discussione, per ragionare su quanto visto. Perfetto, allora ripetiamo l'appuntamento con il giovane Karl Marx alle ore 20 domani al Nuovo Cinema Palazzo a San Lorenzo a Roma. Allora io ti ringrazio, un abbraccio e ci si vede lì. Vediamo domani. Grazie, un saluto a tutti. Siamo con Diego Pascal Panarello per parlare del suo film The Strange Sound of Happiness, in uscita in sala il prossimo 18 aprile. Diego, benvenuto. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Ce ne parli un po', ce lo presenti? Sound of Happiness è un film nato un bel po' di anni fa, circa 6 più o meno. Un'avventura che insomma all'inizio non doveva vedermi protagonista, ma alla fine ci sono ritrovato coinvolto fino al collo e quindi sono diventato il narratore di questa storia che parla di un mondo che scopro attraverso un piccolo pezzo di ferro, che poi sarebbe un piccolo scacciapensieri siciliano che ha appunto la forma di una chiave e mi ha aperto un mondo sconosciuto che è il mondo della Iacuzia, dove questo strumento è un oggetto quasi sacro, senza quasi, e io scopro vivo delle avventure che in qualche modo mi cambiano la vita. Cos'altro dire? Vediamocelo. Tu l'hai visto Federico, sì? No, ancora no, non ho avuto modo, quindi sono molto curioso. Senti, raccontaci un po' la genesi di tutto questo. La genesi creativa o produttiva? Diciamo, partiamo prima dalla creazione e poi sì, chiaramente dalla realizzazione. Genesi creativa, lo strumento è tipicamente siciliano, quindi l'ho sempre visto, mi è sempre incuriosito. Un giorno però è come non so come dire, una chiamata. Sono andato in un negozio di souvenir, ne ho preso uno, ho iniziato a suonarlo e quando ho fatto la prima nota ci ho messo un po' per farlo suonare, qualche ora, un giorno forse, e ho sentito un piacevole massaggio alla testa, ho sentito

Senti Diego, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Beh, The Strange Sound of Happiness su Facebook ci sono tutti gli aggiornamenti. È Perfetto. semplice. Allora, ricordiamo questo tuo lavoro in uscita in sala il prossimo 18 aprile. Un saluto e un ringraziamento a Diego Pascal Panarello. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie Federico, abbraccio a te e il pubblico. Ciao. A presto, grazie, ciao. Siamo con Bruno Oliviero, regista del film Nato a Casal di Principe, in uscita in sala il prossimo 25 aprile. Bruno, ben trovato. Ciao Federico, buonasera. Allora, ci racconti un po' di questo film? Allora, il film, come evoca il titolo, è un po' una storia di origini. Cioè, c'è questo ragazzo che è Amedeo Letizia, che è stato un attore di Ragazzi del Muletto, una serie abbastanza famosa negli anni 90, nato a Casal di Principe, paese tristemente noto per l'ascesa del clan dei Casalesi, che un po' ha dominato la scena camorristica campana negli ultimi 20 anni. Nato in questo posto, volendo fare l'attore, se n'è andato a Roma e poi è stato risucchiato all'inizio degli anni 90, ventenne, dalle sue origini, perché il fratello si era stato, diciamo, un po' troppo prossimo alle cattive compagnie ed è stato rapito e poi ucciso. Lui è tornato con un'idea un po' di ritrovarlo, ma anche forse di vendicarlo. E il film racconta queste poche settimane sue, di questo ragazzo di 20 anni che, risucchiato alle sue origini, torna nella sua terra con un'idea anche un po' appunto vendicativa, e della sua famiglia che invece cerca di seguire vie legali che all'epoca, diciamo, erano complesse, se non proprio impossibili a Casal di Principe, dove anche i carabinieri all'epoca, risultato poi di processi, erano a servizio della camorra, diciamo così. Quindi è una storia di resilienza, cioè di come si fa in un posto del genere, occupato completamente dalla camorra, che in quel momento era in guerra per il dominio, come si fa di fronte a una cosa così come quella della sparizione di un figlio a continuare a resistere anche alla tentazione della vendetta? Bruno, alla base c'è una vicenda autobiografica e un libro. Appunto, è nato a Casal di Principe di Amedeo Letizia, che è questa memoria su che cosa lui ha passato negli anni in cui ha cercato il fratello, ha cercato giustizia per il fratello. Ma la sceneggiatura di Maurizio Braucci e Massimiliano Virgilio si distacca un po' dal libro, nel senso che è andata a fare sul campo una ricerca sui giorni del rapimento. Perché Amedeo Letizia nel suo libro racconta poi tutto l'iter che l'ha portato fino a riuscire a far riaprire il caso e a far condannare mandanti esecutori del rapimento dell'omicidio del fratello. Quando io ho letto la sceneggiatura, il fatto che fosse così tutto vero, tutto documentato, tutto molto stretto sui personaggi che hanno vissuto questa vicenda, che non è una vicenda né eroica né di grande profilo criminale, ma è una vicenda inedita nei racconti di Camorra, che indaga proprio come vive una famiglia normale, che non ha né delle aspirazioni ad essere, diciamo, contro la Camorra, né a far parte della Camorra. Mi è molto interessato questo, perché attraverso questa verità riuscivamo a raccontare qualcosa che nei tanti racconti sulla camorra contemporanei non era stato ancora raccontato. Senti, che tipo di difficoltà è tornare a un'ambientazione anni 90? Beh, Anzi, ma fine anni 80. è la magia del cinema. Abbiamo dovuto avere le macchine d'epoca, i costumi, però con Isabella Ritta, i costumi, Antonio Farina, la scenografia. fatto un lavoro molto attento, un po' certosino, e anche con le acconciature, per trovarci negli anni 90 anche riconoscibili oggi. Così la storia poteva prendere anche una dimensione contemporanea, in un certo modo. Sì. Abbiamo tirato fuori dagli anni 90 ciò che è resistito, ciò che vediamo. La cosa strana erano i capelli. Stamagnina ha fatto un lavoro, diciamo, a monte, perché dovevamo far crescere i capelli a questi ragazzi che ormai li portano tutti rasati, e all'epoca si portavano le zattere. Sì. Però non è stato un lavoro, diciamo così, difficilissimo. Sì, Più, sì. la difficoltà è stata più quella di non esasperare l'ambientazione d'epoca. Sì. Oh, Bruno, il processo, da quanto leggiamo nei titoli di coda, si conclude nel 2015, senza tra l'altro che il corpo del fratello del protagonista sia mai stato trovato. Com'è cambiata in questi anni la scena e le metodologie della criminalità organizzata? Io poi c'è da dire che non è che sono un esperto di questa cosa qui, cioè io ho preso questo racconto e ho cercato di darle un film che le persone potessero godersi, seppure un film doloroso. Quello che io ho visto è che c'è una grande voglia in quella zona di riscatto da parte di tutti, gli interpreti che abbiamo scelto lì, perché abbiamo fatto un lavoro di scelta di interpreti non professionisti sul luogo e fanno delle parti importanti, Sì. il cugino, il fratello piccolo, gli amici. Abbiamo fatto un lunghissimo laboratorio con loro lì, teatrale, che è durato un paio di mesi, e la cosa che era commovente era come loro volessero, diciamo, essere partecipi di questo racconto, perché sentivano che i padri erano stati acquiescenti. Allora forse la cosa che è cambiata è che le persone adesso sono più coscienti Sì. del male che ci hanno intorno, Sì. allora cercano di reagire. I giovani in particolare sentono quanto i padri, nel far finta di non vedere, hanno in realtà dato una mano importante all'ascesa di quelle famiglie camorriste. Ecco, a questo proposito, Bruno, secondo me, sono riuscito a vederlo, il film, uno dei pregi principali è rendere questa atmosfera paludosa di muro di gomma che si era creata intorno a questa vicenda. Assolutamente, questa è una cosa a cui abbiamo tenuto molto, cioè era l'idea un po' di rappresentare un assedio, un po' come l'ha detto Caprara sul Martino quando il film è stato a Venezia, cioè che è uno di quei western un po' crepuscolari nei quali ci sta il fortino, però c'è il momento dell'attesa, no? Dell'attacco degli indiani. E questo serviva anche appunto a raccontare questo strano modo di non vedere cosa c'era intorno. E l'abbiamo reso questo grazie al lavoro che hanno fatto gli interpreti. Cioè, Sì. abbiamo lavorato veramente tanto, sia con Donatella Finocchiaro che con Massimiliano Gallo, a preparare questo modo di recitare che fosse appunto attivo e nello stesso tempo passivo, come se seguissero questa vicenda nel diretta rispetto al. Io la scena che amo di più, una delle scene che amo di più, è proprio quando Donatella Finocchiaro, che interpreta la madre del protagonista, cambia un'ingerenza della camorra che si presenta a casa loro offrendo aiuto, nonostante siano loro i responsabili del rapimento, e lei la scambia per una vera offerta di aiuto. Quando il marito le svela che in realtà sono camorristi quelli che si sono introdotti in casa con la scusa dell'aiuto, lei impazzisce. E questa è la cosa che forse, una delle cose che forse mancava veramente a me, nell'immaginario contemporaneo della camorra, nella quale non è solo la violenza, ma è soprattutto l'aiuto la cosa più pericolosa, cioè l'offerta di sostituirsi allo Stato, ai poteri costituiti, alla parte sana della società per risolvere problemi. Forse quando accettiamo questo, quando si inizia ad accettare questo, è l'inizio della fine, no? Cioè sì. L'inizio dello strapotere. Mm-hmm. Bruno, in chiusura, che tipo di distribuzione ci sarà? Allora, lo distribuisce Europictures in maniera al momento nei grandi capoluoghi, film da proteggere, quindi abbiamo pensato proprio di fare delle intanto un'uscita molto mirata, nella quale io sarò presente spesso ad accompagnare il film, e anche gli interpreti ci saranno, quindi usciamo nelle grandi città, molto in Campania, perché è una vicenda che secondo noi è importante che vedano le persone in Campania. E poi abbiamo avuto adesso da parte dell'AGI Scuola un bellissimo riconoscimento come film importante per le giovani generazioni, quindi la distribuzione, diciamo, speriamo normale, come tutti i film che si impegnano a cercare di raccontare il mondo, sono film un po' più difficili d'accesso, ma non difficili in sé, no? Sì. Allora ricordiamo il film Nato a Casal di Principe di Bruno Oliviero, in uscita in sala il prossimo 25 aprile. Bruno, un ringraziamento, un saluto, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille Federico. Ciao. Ciao. Siamo in collegamento telefonico con Pietro Liberati di Tycoon Distribution per parlare del film Interruption di Yorgos Zois, in uscita in sala il 24 aprile prossimo. Pietro, benvenuto. Grazie. Lo raccontiamo brevemente a chi ci ascolta? Sì, allora, Interruption è un film greco che è stato presentato al Festival di Venezia e ha ricevuto anche un finanziamento dal Torino Film Lab, poi è passato anche al Torino Film Festival, che parla di una rappresentazione teatrale in un teatro centrale di Atene, in cui improvvisamente sale sul palco un coro inatteso. E è un coro che non è quello della rappresentazione, ma invita il pubblico a prendere parte a quello che sta succedendo. Inizialmente nessuno, né dal pubblico né delle persone che erano già sul palco, capisce che cosa stia succedendo, se sia finzione o realtà. Cosa sappiamo dell'idea di partenza del film e del regista? Sì, il film si ispira a un fatto di cronaca recente, perché nel 2002 c'è stato il sequestro di 850 spettatori a Mosca, al teatro Dubrovka, e inizialmente i guerriglieri ceceni che avevano sequestrato il pubblico erano saliti sul palco, non avevano fatto capire chiaramente le loro intenzioni, e il pubblico aveva pensato a una trovata postmoderna, quindi il pubblico inizialmente si è trovato in una specie di interregno in cui non si capiva cosa fosse finzione, cosa fosse realtà, e quindi il regista si è ispirato appunto a questa suggestione e ci ha costruito sopra un film intero. Il fatto che venga dalla Grecia è anche un fatto un po' insolito per i nostri schermi. Assolutamente, infatti è talmente insolito che abbiamo fatto la scelta di distribuirlo insolitamente in versione originale con i sottotitoli. In questo modo anche il pubblico italiano potrà esperire quello che vuol dire appunto il rumore di un teatro senza sovrapposizione di colonna audio e doppiaggi che magari avrebbero leggermente falsato l'effetto sul pubblico. È un film che comunque in ogni festival dove è andato ha riscosso grandi entusiasmi, e anche le persone che hanno assistito alle proiezioni a Venezia e Torino se lo ricordano a distanza di tanto tempo, infatti addirittura qui a Padova, noi siamo un'etichetta padovana, qui a Padova ho conosciuto una ragazza che ci ha costruito sopra una tesi di laurea, cioè su un film di un regista sconosciuto e che non è uscito praticamente nel circuito commerciale di nessun paese vicino a noi, lei ha deciso di costruire una tesi di laurea. Pietro, cosa ti ha convinto del film? Beh, è un film che richiede sicuramente attenzione dal pubblico, ma che riesce a ripagare e ad entusiasmare. Io l'ho visto la prima volta a Venezia nel 2015, dove era nella sezione Orizzonti, e da allora mi è rimasto appunto il pallino di recuperarlo in qualche modo. E la nostra etichetta Tycoon Distribution si propone appunto di scovare questi titoli che vengono trascurati dalla distribuzione ordinaria e che noi ci proponiamo di portare al grande pubblico in qualche modo, facendogli questo regalo di fargli vedere queste cose che altrimenti si perderebbe. Mi dicevi sconosciuto a livello internazionale il regista Yorgos Zois, e invece in Grecia? Allora, il regista è esordiente nel lungometraggio, okay, con questo titolo, ma ha fatto diversi cortometraggi che sono stati molto, hanno ricevuto molti premi in giro per il mondo. Sono dei cortometraggi in cui in filigrana si legge quella che è la tensione che attraversa la Grecia, attraversa quell'area del mondo in questo momento. Che tipo di distribuzione sarà? Allora, distribuiremo il film nelle grandi città del centro-nord. Il film uscirà. Inizialmente faremo un'anteprima proprio dopo domani, nella nostra città, Padova. Un'anteprima per il pubblico, dopodiché il 24, martedì, usciremo nelle grandi città del centro-nord, quindi Roma, Milano, Torino, Bologna e anche Perugia, e ci aspettiamo una risposta piano piano positiva, perché gli esercenti a cui l'abbiamo proposto inizialmente magari non conoscevano neanche il titolo, poi dopo averlo visto si sono entusiasmati anche loro, quindi puntiamo a una tenitura positiva. Ci lasci dei riferimenti web per saperne di più? Certamente. Allora, c'è sia a parte il nostro sito tycoondistribution.it, c'è il sito anche del regista Yorgos Zois, che è www.yorgoszois.com, e vorrei aggiungere anche che il film nel suo primo giorno di programmazione sarà preceduto, quasi tutte le sale che lo proietteranno, da un videomessaggio del regista a cui abbiamo chiesto appunto di dire qualcosa al pubblico italiano. Lui con molta emozione anche ci ha regalato questo videomessaggio che proietteremo sia all'anteprima padovana sia alle sale che il 24, insomma, per l'uscita nazionale. Allora, ricordiamo Interruption di Yorgos Zois, in uscita in sala il 24 aprile. Un saluto e un ringraziamento a Pietro Liberati di Tycoon Distribution. Pietro, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille. Siamo in compagnia di Tommaso Mannoni, co-regista del documentario Fino in Fondo, che sarà presentato alla Casa del Popolo Giuseppe Tanas qui a Roma il prossimo 20 aprile. Tommaso, ben trovato. Ah, ben trovati a voi, grazie e buona serata. Allora, ci racconti un po' di questo film? Allora, si tratta di un documentario di 75 minuti, quindi un'ora e un quarto, un formato da lungometraggio. È un film che ripercorre le vicende degli operai del Sulcis, della lotta degli operai del Sulcis rispetto alla chiusura delle fabbriche di un polo industriale cosiddetto dell'alluminio. Quindi le vicende più forti sono state quelle dell'Alcoa, degli operai dell'ex Alcoa, perché l'Alcoa ormai è andata via. L'Alcoa è una multinazionale che stava presente da 15 anni nel territorio, che fabbricava l'alluminio. L'Alcoa è un acronimo, sta per Aluminium of Company of America, Aluminium Company of America, è la più grossa multinazionale di alluminio che è presente nel mercato mondiale. Pensiamo che si pensi che il loro prodotto viene venduto alle più grandi compagnie di fabbricazione di automobili tipo la Ford e altre, la Chrysler, e aveva un indotto di circa 2000 operai che a un certo punto, per ragioni che noi non possiamo conoscere, tuttavia per ragioni di mercato, decide di chiudere un'azienda e mandare a casa 2000 operai con le loro famiglie e quindi con tutto quello che ne comporta per tutto un territorio che si trova improvvisamente in crisi. Gli operai hanno varie età, variano tra i 30 anni e i 60 anni e si trovano tutti a casa senza più uno stipendio, senza più un ammortizzatore sociale, qualcuno in cassa integrazione, qualcuno in mobilità, ma senza più un sostegno, in una condizione drammatica. Lì prendono le redini di qualcosa che gli appartiene storicamente, minatori, è un territorio di miniere, il Sulcis. Le lotte dei minatori forse sono quelle che hanno storicamente fatto nascere i primi movimenti di lotta operaia e da cui sono nati poi i sindacati. Loro orgogliosamente prendono il casco e iniziano a fare le loro manifestazioni piuttosto violente, piuttosto arrabbiate, piuttosto forti, sotto il ministero a Roma, sotto la regione a Cagliari e nel Sulcis in particolare, quando vennero i rappresentanti dei ministri, due ministri, uno del ministro dell'industria e uno del ministro della programmazione, e loro con le loro forti manifestazioni e addirittura con uno sbarramento dal luogo in cui si erano incontrati, li fecero scappare con l'elicottero. Questo racconta un po' il documentario, quindi è un documentario in presa diretta, un documentario che trascina questa storia con un montaggio alternato tra interviste, sguardi e varie manifestazioni, cercando di scavare fino in fondo il loro animo e la loro dignità e i loro desideri e i loro sogni. Ecco, proprio a questo proposito ti chiedo, Tommaso, che quadro ne esce fuori? Esce fuori un quadro da un punto di vista, diciamo, esistenziale abbastanza sconfortato, perché ovviamente è un territorio in cui, non per scelte loro, per scelte politiche, è un territorio che si è negli anni dichiarato industriale, violentato, un territorio violentato, perché è un territorio dedito ad altro, alla pastorizia, alla pesca, all'agricoltura, infatti ci sono delle coste bellissime nel Sulcis, ci sono tra le specie più belle al mondo, cioè basti pensare le dune di sabbia bianca che ci sono lì sotto, vicino a Teulada, vicino Sant'Antioco, San Pietro, eccetera. Ma per ragioni economiche si decise di creare un polo industriale, che ha in qualche modo devastato il territorio, quindi ha devastato le loro culture. Loro hanno non solo il polo industriale, anche le scuole, l'istruzione, si sono fatti molti istituti tecnici industriali per formare gli studenti, per formarli come periti industriali, per poi arrivare in fabbrica, e improvvisamente, per scelte economiche, quindi non controlli da parte della politica, si trovano senza più un futuro, senza più un presente. Quindi ne esce fuori uno sconforto che sfocia in una forte rabbia e un desiderio di ribellione molto molto forte, che nel film viene raccontato, sì, in presa diretta, in cui le telecamere, siamo in due a fare le riprese, siamo con loro, a fianco, siamo i loro occhi, a fianco a loro. Da quel momento, Tommaso, ad oggi, volevo chiederti anche com'è la realtà oggi in Sardegna dal punto di vista chiaramente occupazionale, ma anche ambientale. Allora, l'ambiente, per fortuna, poi essendo così esuberante e comunque così naturalistico, così a bassa densità di popolazione, eccetera, non è deturpato, è semplicemente un pochettino, ha delle pieghe e ha delle tracce in cui ci sono delle scorie importanti, ma lo è più da un punto di vista, diciamo, psicologico, nel senso è anche nell'anima di molti che purtroppo stanno emigrando, la regione è sempre più disabitata, quella zona è un territorio che ha pochissimi abitanti, eccetera, per cui c'è molto sconforto, molto non vedono futuro, non vorrebbero diventare un'isola, loro chiamano, non vogliamo diventare un'isola di camerieri, non vogliono fare proprio un'attività turistica solo, esclusivamente alberghiera, eccetera, vorrebbero qualcos'altro. La politica è assente di qualsiasi vento, da qualsiasi vento provenga, che venga da est, da nord, da sud, da ovest, quindi mi riferisco diciamo a tutte le zone politiche che sono succedute, non riescono a trovare soluzioni, non ci sono molte alternative e quindi c'è una grande depressione da un punto di vista proprio esistenziale, psicologico, personale, e il film cerca di indagare su questo. Infatti lo stile che adottiamo nel film è un'alternanza tra il loro vivere quotidiano, il loro sentire e le loro azioni più forti, più violente in giro per la città, per a incontrare i politici oppure a manifestare. Sì. Senti, ci dai tutti i riferimenti web, se ci sono, su questo documentario, ma più in generale sulla vostra attività? Allora, io sono un regista, soprattutto ho studiato fino a soggetto, cioè sceneggiatura e regia. Poi mi sono trovato a fare questo documentario incidentalmente, quindi proprio stato investito da questa vertenza e avevo delle conoscenze e quindi mi hanno chiesto di fargli dal loro, diciamo, occhio e quindi abbiamo iniziato questa attività. Quindi poi adesso mi è piaciuto fare il documentario e quindi ne farò altri alternati a film a soggetto, film di fiction, eccetera. La pagina web di questo documentario ha lo stesso nome del titolo, filminfondo.doc, è una pagina Facebook dove ci sono tutte cioè il teaser, le informazioni, eccetera. Ha vinto dei premi in alcuni festival importanti, uno a Roma, ha vinto miglior regia lì al Festival Cinema Avenire. Poi è stato unico film italiano a alcuni festival tipo Lille, Milano Film Festival nella sezione documentari, poi altri festival internazionali, eccetera, quindi ci ha dato anche grandi soddisfazioni perché abbiamo potuto presentarlo in varie nazioni e in varie regioni d'Italia. Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento con Fino in Fondo per la regia di Tommaso Mannoni, ricordi anche il tuo Alberto Badas. Perfetto, alla Casa del Popolo Giuseppe Tanas a Roma il prossimo 20 aprile. Tommaso, è stato un piacere, un abbraccio e alla prossima. Grazie, alla prossima, grazie a voi. Siamo in collegamento telefonico con Claudia Bedogni di Satin Film per parlare del film Wajib in uscita in sala il prossimo 19 aprile. Claudia, ben trovata. Ciao, grazie a voi del sempre cortese ed apprezzatissimo invito. Posso permettere subito una correzione? Non certo. È il 19 aprile, ma il 24 aprile. Ok. Di pochi giorni, slittiamo di pochissimi giorni, quindi chiediamo solo un pochino di pazienza al pubblico che so che sta aspettando con grande interesse appunto l'uscita di Wajib. Sottotitolo Invito al matrimonio di Anna Marie Jassir, non so se sia giusta la pronuncia. Esatto. Ok. Regista palestinese, pluripremiata, molto apprezzata all'estero e personalmente sono estremamente onorata e orgogliosa di portare nelle sale italiane e far conoscere il suo lavoro al nostro pubblico. Ha vinto tantissimi premi internazionali, miglior film a Dubai, a Mar del Plata, gran premio della giuria a Londra per il film e per gli straordinari protagonisti, padre e figlio realmente nella vita, che sono il grande Mohamed Bakri e Saleh Bah. massacri. Tra l'altro con il patrocinio di Amnesty International. Esatto, esattamente, con il patrocinio di Amnesty, tra l'altro con un grande sostegno da parte delle associazioni. Ma io farei una premessa, un passo indietro, perché ci tengo particolarmente a ringraziare in questo caso il venditore internazionale che mi ha letteralmente inseguito, non avendo avuto la possibilità di apprezzare il film appunto nei vari festival dove è stato presentato. E mi ha veramente continuato a, come dire, a pressare affinché lo vedessi, cioè non un film satin, assolutamente un film satin, e sono felice di questa identificazione, diciamo, ormai della satin con un tipo di cinema particolare che è veramente una finestra sul mondo e che ci dà proprio la possibilità di entrare attraverso il cinema nella quotidianità, nella vita, nelle storie di paesi che sono solo apparentemente lontani ma che in realtà raccontano argomenti che ci toccano veramente molto da vicino. E Voyager in modo particolare è un film veramente estremamente stratificato che offre tanti spunti di riflessione, a partire dal titolo che mi ha immediatamente colpito, perché Voyager in arabo significa dovere e fa riferimento a questo dovere sociale legato alla tradizione palestinese di Nazareth, dove il film è ambientato ed esattamente nella comunità cristiana di Nazareth, di dover consegnare in qualunque matrimonio in famiglia personalmente a tutti appunto le partecipazioni di nozze, a tutti gli invitati, proprio casa per casa, a mano, proprio come simbolo, come manifestazione di rispetto verso l'invito. E questo già, quindi questa attenzione per la tradizione, proprio per gli usi in un mondo che va alla velocità della luce, dove noi tutti dobbiamo razionalizzare tempo, risorse e mandarci mail, l'ho trovato già, come dire, un motivo di attrazione assolutamente fantastico. E, se vuoi racconto la storia del film oppure... Sì, raccontiamolo brevemente. Io vado avanti. Ok, questa tradizione, ecco, viene raccontata appunto da, come dicevo, da Bouchadi, che è questo insegnante 65enne molto fiero, che vive nella sua terra, che ama tantissimo, che è appunto Nazareth, e che si sta preparando quello che fosse il giorno della sua vita più bello, cioè il matrimonio della figlia Mal. Lui ha cresciuto due figli da solo perché la moglie l'ha abbandonato per fuggire con un altro uomo in America e si appresta appunto a questo, a rispettare il wajib, con l'aiuto anche del figlio Shadi, che è l'altro figlio che però non vive più a Nazareth ma che vive invece in Italia, ha scelto di vivere in Italia. Questa è un'occasione per riunirsi padre e figlio on the road in questa giornata intensa, dove si aprono le porte non solo dei cristiani di Nazareth ma anche di altri, di musulmani, di amici, parenti o anche semplicemente vicini, ed è un momento di incontro tra padre e figlio che però ormai non hanno più la stessa visione della vita, e questo è naturale conflitto generazionale che un po' tocca tutti noi, no? Tutte le persone, comunque padre e figlio, c'è sempre quell'incomprensione, quella differenza culturale legata proprio a una visione del mondo diversa, viene chiaramente amplificata da quella che è la criticità della vita in Palestina e in modo particolare a Nazareth, perché il figlio ha scelto di vivere all'estero, quindi ha l'irruenza di chi può comunque permettere una purezza ideologica, mentre invece il padre ha scelto di restare con tutte le difficoltà in quella che è la sua terra, e quindi con saggezza e con anche, come dire, moderazione capisce che ha dovuto accettare determinati compromessi per poter crescere due figli e per poter rimanere e chiaramente far fronte all'occupazione. Quindi un film che ha tanti, una ricchezza straordinaria, tante pennellate che con grande eleganza e raffinatezza la regista De Maria Chassis è riuscita a dare in questa caratterizzazione dei personaggi profonda, e di casa in casa si apprendono tantissime cose. La dimostrazione che attraverso il cinema possiamo davvero allargare i nostri orizzonti e quantomeno essere anche stimolati a saperne di più, anche approfondire in modo, come dire, privato, perché il cinema ci può offrire la possibilità di conoscere cose che oggi i media magari non sono in grado di raccontarci con una tale verità. Com'è andato all'estero? Non so se si nota. Bene, è uscito in Francia e finora è stato molto apprezzato sia dal pubblico che dalla critica, proprio perché è un film che ha una sua originalità. Quando si parla sempre del conflitto, no? Israele e Palestina, sempre un territorio minato perché si rischia la faziosità. In questo caso invece Anne Marie Jersey parla proprio della vita, della realtà, una realtà che lei conosce profondamente, ed è chiaro che attraverso questa descrizione esce fuori poi, dire, la realtà di una comunità che giornalmente soffre di disagio fortissima, davanti alla quale non si può rimanere indifferente. No, il film è stato apprezzatissimo ovunque, il primo film che viene Marie Jassir che esce appunto in Italia, e quindi insomma, speriamo veramente che il pubblico lo possa rendere il merito che credo giustamente abbia. Benissimo. Che tipo di uscita sarà? Ecco, un'uscita, come dicevo, un'uscita, purtroppo la situazione in Italia è sempre più faticosa, io non voglio l'ennesimo cahier di doleanze di lamentazione, però effettivamente questi film che purtroppo vengono sempre definiti piccoli, indipendenti, cosa che non sono, che sono film che hanno invece una grande capacità, una grande portata, soprattutto anche di cinematografica, no? Di poter creare proprio un racconto puro, intero, vero e soprattutto di grande capacità proprio di arte cinematografica, sono film importanti, che però soffrono il fatto che noi ogni settimana abbiamo tantissime uscite finché si cannibalizzano fra di loro. Quindi l'uscita sarà fatta solo di qualche giorno posticipata per poter approfittare del fatto di avere più sale. Noi cerchiamo sempre di uscire capillarmente, se non in prima battuta, ma almeno con una lunga profondità a seguire. E devo dire in questo le sale ci seguono molto, perché finora sono, diciamo, dei film insomma apprezzati, questo mi rende molto felice, anche se in prima battuta non possiamo uscire con tantissime sale. Io mi auguro solitamente una ventina, riusciamo sempre a metterle insieme. L'importante è avere buone sale dedicate, perché io dico sempre che questo è un lavoro che si fa in squadra. Il distributore propone dei film che noi ci auguriamo che possano essere nelle cose del pubblico, oltre che anche credo valore cinematografico per la critica, però l'esercizio poi deve aiutarci attraverso il proprio pubblico fidelizzato, che non conosce la qualità della programmazione, a presentare al meglio le nostre proposte. Quindi noi abbiamo bisogno di questa sinergia forte con la sala, cosa che diventa sempre più difficile perché le uscite sono un po' last minute, quindi non c'è il tempo di poterli preparare i film insieme. Però siamo fiduciosi, la stampa ci ha seguito tantissimo sul film, e ho avuto veramente il grande onore di avere Marie Jassir e il grande Saleh Bakri con noi ospiti, prima a Roma e poi a Firenze nell'ambito del Middle East Now Film Festival, quindi è stata veramente un'occasione anche di approfondimento, di incontro con il pubblico, di incontro con la stampa, e quindi insomma speriamo un grande attenzione a Amnesty che ci sostiene, chiaramente la Comunità Palestinese, per loro credo che sia un evento importante avere un film che esce in un circuito commerciale, e io sono insomma, comunque vadano le cose, che sia importante dover sostenere questo tipo di cinema, quindi andiamo avanti, guardiamo avanti. Benissimo, allora ricordiamo Wajib, Invito al matrimonio di Anne-Marie Jassir, in uscita in sala il 24 aprile. Un saluto e un ringraziamento a Claudia Bedogni di Satin Film. Claudia, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, Credi, grazie sempre per la vostra attenzione. Ciao. Buon lavoro a tutti. Ciao, grazie. Siamo con Dario Bonazzelli per parlare di Ex Libris, New York Public Library di Frederick Wiseman, in uscita in sala il 23 aprile. Dario, ben ritrovato. Ciao a tutti. Ci racconti un po'? Assolutamente sì. Frederick Wiseman non credo che sia un autore che abbia bisogno di grosse presentazioni, credo che sia più grande documentarista vivente accanto a Werner Herzog, non so parole che dico io, ma il suo leone d'oro alla carriera a Venezia e il riconoscimento dell'Academy Award come con l'Oscar alla carriera credo che parlano chiaro. Ha all'attivo, non voglio dire fesserie, ma più di credo 40 documentari, e siamo contentissimi come Wonder Pictures e Unicode Biographing Collection di aver portato in Italia gli ultimi due suoi titoli. Forse ricordate qualche anno fa, in collaborazione con Nexo Digital, lo strepitoso film sulla National Gallery. Quest'anno Wiseman ha portato invece alla Mostra del Cinema di Venezia, ovviamente 2017, e ora noi nelle sale, il suo ultimo capolavoro, Ex Libris, The New York Public Library. Ex Libris è un film non per tutti, è un film documentario di grande importanza, era in concorso alla Mostra del Cinema, È un film di ben 3 ore e 17 minuti, ma che scorrono con una piacevolezza incredibile. Ed è il racconto dell'universo della Public Library di New York, non tanto come edificio in sé o come una semplice biblioteca, che nell'idea comune può essere un servizio di prestito libri. In realtà le biblioteche sono degli organismi viventi, all'interno succedono tantissime cose, non solo dagli eventi e non solo il prestito libri o DVD o altro, ma sono intere comunità che vivono le biblioteche e che si formano e che crescono. Ecco, questo credo che sia il messaggio, il concetto più importante da dover trasmettere, per il quale la visione di questo film è veramente un accrescimento personale. Senti, com'è strutturato questo lavoro? È un lavoro che segue i lavoratori della biblioteca piuttosto che il board della direzione, che dibatte sui finanziamenti pubblici e quelli privati che debba avere la biblioteca, che segue i gruppi sociali che si sono formati all'interno della biblioteca, si dà voce a minoranze, ci sono tantissimi temi, e la telecamera segue in modo non intrusivo ma sempre distaccato e con una forma narrativa che è propria, un timbro proprio, quello del maestro Wiseman, e segue tutto questo, raccogliendo tutto questo materiale in sole 3 ore e 17 minuti. Dico sole e non sono ironico, perché il girato del maestro credo arrivasse a più di un centinaio di ore o anche più. È un film che abbiamo deciso di non potevamo mancare come società primariamente impegnata nei documentari di portare in Italia. Abbiamo scelto le date evento del 23, 24 e 25 aprile per dei motivi precisi. Il 23 aprile è il giorno in cui ricorre la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. Il 25 aprile, come sappiamo tutti, è la festa della liberazione. Ecco, questo è un film che parla in primo luogo di democrazia del pensiero e dell'istituzione bibliotecaria e culturale in sé come baluardo della democrazia occidentale, soprattutto ai giorni nostri, dove di democrazia si sente spesso parlare, ma calpestandone il vero significato. Per portare questo film nelle sale, aggiungo questa cosa, Federico, che ci tengo molto, ci siamo avvalsi della complicità e della collaborazione di AIB, che è l'Associazione Italiana Biblioteche, e AVI, che è l'Associazione Videoteche e Mediateche Italiane. Il film sarà presente a partire da lunedì prossimo, 23 aprile, in oltre 40 sale, e in quasi praticamente tutte le sale ci sarà un evento curato dalle singole biblioteche locali. Una curiosità, Dario, visto che si parla di un caposaldo della cultura, come anche accennavi al discorso dei finanziamenti pubblici e privati, ecco, come funziona rispetto ai finanziamenti? Io credo che la Public Library sia ovviamente un modello all'avanguardia nel mondo per le formule anche innovative di gestione economica. Parlando con molti bibliotecari con i quali ho avuto il piacere di entrare in contatto negli scorsi mesi, attualmente appunto mi riferiscono che il modello economico portato avanti dalla Public Library è un sogno in Italia. Non siamo ovviamente, come spesso sulla cultura e altro, indietro anni luce su certe pratiche, buone pratiche di amministrazione. Nello specifico il film è molto interessante quando vengono riprese appunto le sedute, le discussioni tra i vari investitori presenti della Public Library, così come il board di amministrazione, dove si fanno le valutazioni su quella che deve essere l'incidenza dell'investimento economico pubblico, del quale ovviamente la gran parte delle biblioteche, adesso penso all'Italia, hanno e si sostengono, ma che vada di pari passo con l'investimento privato, e di capitali alla Public Library di New York ne arrivano tanti. Ecco, è un suggerimento anche per i nostri decisori pubblici e anche privati di vedere le buone pratiche dell'America di oggi. Senti, quanto è imponente il suo la sua realtà, nel senso, quante persone ne fruiscono? Oddio, sono numeri che impressionanti. Ho anche ad immaginare quale sia il bacino di utenza di una biblioteca come quella di New York. Ecco, quello che è di fatto che mi preme dire è che è diventato, non solo un luogo in cui si fruisce la cultura, ma in primo luogo proprio un luogo di socialità che si vive e che evolve e che ha una frequentazione ovviamente altissima. In quel caso è un caso peculiare, per cui poi anche studiosi di tutto il mondo un passaggio alla Public Library nella vita lo devono fare, sia per ovviamente l'imponente quantità di opere che hanno in consultazione e sì, perché appunto è il simbolo, un'istituzione culturale ormai oggi simbolo e con questa opera del maestro Wiseman certamente ciò viene sancito a chiare lettere. Benissimo, allora ricordiamo l'uscita del film Ex Libris New York Public Library dal 23 al 25 aprile con I Wonder Pictures. Un ringraziamento e un saluto a Dario Bonazzelli. Un abbraccio Dario e alla prossima. Grazie a te Federico e grazie a tutti gli ascoltatori. A presto. Ritroviamo Fabrizio Ferraro, regista del film Gli Indesiderati d'Europa, in uscita in sala il prossimo 24 aprile. Fabrizio, ben trovato. Ben trovato a te, buongiorno. Allora, lo descrivi brevemente? Ma il film è un po' attraversa un sentiero che passa tra la Francia e la Spagna, che anch'esso attraversa verso i Pirenei va anche il confine, e questo sentiero è stato abbastanza protagonista nella storia dell'Europa, perché nel 1939 veniva utilizzato dalla ritirata dai rifugiati della Repubblica Civile Spagnola che scappano da Franco, e poi appena 18 mesi nel senso inverso viene percorso anche da Walter Benjamin per scappare dalla persecuzione nazista, cercare di raggiungere gli Stati Uniti. Quindi una via di fuga in Europa? Beh sì, un momento, un sentiero che la attraversa proprio, possiamo dire, l'Europa, nel senso proprio più vero, in cui cerca di rompere quelli che sono poi i confini prestabiliti, costruiti artificiosamente, in cui l'Europa si era trovata in una mobilità che comunque poteva produrre delle speranze che poi non sono mai state accolte, perché i rifugiati, diciamo, nella ritirata spagnola praticamente l'accoglienza della Francia non è molto lontana da quella attuale, perché vennero messi in dei campi di accoglienza, ma in realtà dei veri e propri campi di prigionia, dei lager, in cui in alcuni addirittura, dove un campo che è presente anche nel film, ad Argelès-sur-Mer, che sono stati messi sulla spiaggia senza nessun tipo di servizio, abbandonati al freddo e ad una condizione poi difficile da sostenere, senza acqua potabile e quant'altro. Mm-hmm. Diciamo, nella violenza subita da chi cerca comunque di produrre una mobilità diversa, le stesse risposte.

Ci lasci dei riferimenti web per saperne di più? So che il programmatore hanno fatto la pagina Facebook, gli Indesiderati d'Europa, poi c'è un sito, gli Indesiderati d'Europa, che è tutto attaccato, e lì penso ci saranno tutte le varie informazioni. Tra l'altro poi mi piace dirlo, sono molto contento, so che è uscito un libro che Valerio Carando, che è un critico che sta in Spagna, che però collabora con Segno Cinema, Curio Umana, Cineforum e altri. Poi anche i quotidiani spagnoli, sul set, ha seguito il film con noi, ha scritto un libro che è edito da Deriva Prodi, che si può trovare adesso, che è scritto dagli Indesiderati, un po' c'è un diario riflessione su tutta la lavorazione del film, Bene. Una prefazione di Silvestri che mi è piaciuta molto. Allora, io ti ringrazio, ricordiamo l'uscita in sala del film Gli Indesiderati d'Europa a partire dal 24 aprile, per la regia di Fabrizio Ferraro. Fabrizio, io ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci presto. Ok, grazie a te, buon proseguimento, un abbraccio, ciao. E con noi Irene Dionisio, direttrice della 33esima edizione del Lovers Film Festival Torino LGBTQI Visions a Torino dal 20 al 24 aprile. Irene, ben trovata. Buongiorno a tutti. Ci racconti un po' di questa edizione? Sì, assolutamente. Allora, l'edizione quest'anno è dedicata a Mariel Franco, consigliera comunale di Rio de Janeiro, nera, lesbica e femminista, che è stata assassinata il 15 di marzo di quest'anno, proprio perché sempre in difesa, diciamo, delle minoranze della sua favelas e soprattutto dei diritti LGBTQI. Il festival quest'anno ha naturalmente, come lo scorso anno, quattro concorsi, di cui un concorso internazionale, un concorso documentario, un concorso cortometraggi. È un concorso che noi abbiamo chiamato Iconoclast, ovvero un concorso che lavora su linguaggi sperimentali e innovativi insieme alla Fiera d'Arte Contemporanea di Artissima e il Centro d'Arte Contemporanea di Ginevra. Il festival quest'anno è dedicato al tema dei diritti, che non sono mai completamente acquisiti, e lavora proprio su le questioni politiche attraverso il cinema. Il festival avrà una serie di ospiti. La sua madrina sarà Valeria Golino e ci saranno una serie di ospiti, diciamo, pop, come da tradizione del festival, perché in apertura e chiusura il Festival Gay di Torino ha sempre avuto ospiti e musicisti di una certa rilevanza nazionale, quindi apriremo con Francesco Cabani e chiuderemo con Nina Zilli. E invece l'ospite cinematografico dell'anno, che ci tengo molto a sottolineare, è Robin Campillo, autore di 120 battiti per minuto, a cui dedichiamo anche un omaggio, tra i film che presenteremo anche il cult Le Reve No. Ok. Volevo chiederti quali sono i luoghi del festival? Sì, allora, il festival ha una serie di momenti, diciamo, di avvicinamento che si sono svolti proprio in questi giorni in vari luoghi della città, circolo dei lettori o altri spazi, diciamo, indipendenti della città, mentre invece l'intero festival si svolgerà all'interno del Cinema Massimo, quindi nelle sale del Massimo, che è naturalmente la sala del Museo del Cinema, di cui appunto il Lovers Film Festival è parte. E inoltre si svolgerà in altri due luoghi, soprattutto per il momento di industrie che è stato creato, ovvero un momento di incontri legati alla cinematografia LGBTQI e alla sua distribuzione, che saranno tra Film Commission e Circolo dei Lettori. Quante sono le opere proposte? Allora, le opere proposte sono 81 film, di cui 56 in anteprima nazionale e 5 in anteprima europea, e abbiamo anche delle anteprime mondiali, soprattutto di film italiani. 33esima edizione, con quali caratteristiche era nato il festival? Il festival nell'86, che è stato fondato da Ottavio Mai e Giovanni Minerva, che ora è il presidente del festival, è nato con una fortissima spinta eversiva. Il festival europeo più antico d'Italia a tematica omosessuale e tra i tre più antichi d'Europa, e insieme al Framline di San Francisco e il Flair di Londra racconta le tematiche ormai da 33 anni. Il festival poi ha cambiato circa 5 nomi durante questi 33 anni, anche perché è un festival che si può considerare organico, essendo un festival che tratta di questioni vive, politiche e non musealizzate, diciamo. Senti, e adesso ha acquisito queste sei declinazioni? Sì, perché l'LGBTQI è stato voluto dal fatto che molto spesso la comunità, diciamo, rainbow si considera e si define in maniera chiaramente variegata, e quindi la nostra idea è stata quella di lavorare, come per altri festival internazionali come il Flair per esempio o il Framline, con un nome cappello e con un sottotitolo che potesse raccontare questa varietà. Abbiamo ad esempio deciso di non utilizzare il più, che nelle nuove diciture viene sempre utilizzato, l'LGBTQI+, nel senso che sempre la questione dei corpi e della sessualità è sempre più variegata, e soprattutto il nostro interesse era quello di poter dare spazio a molte componenti, diciamo, sia della comunità chiaramente torinese nazionale, ma anche poi di quelle che sono anche delle tendenze e di micro anche nicchie che si sono create all'interno di questa comunità. E tra l'altro abbiamo voluto sottolinearlo con un momento che ci sarà il 24 di aprile, martedì, con Intersectional View, che è proprio un lavoro fatto da Stefano Stefanini, una regia, quindi un'anteprima internazionale legata proprio alla questione intersex. Ecco, proprio a questo proposito volevo chiederti qual è lo stato delle tendenze sessuali nel mondo. Sì, diciamo che a livello europeo-italiano il discorso si è spostato più su chiaramente la questione degli ultimi diritti da conquistare, quindi sì, in qualche modo c'è un'evoluzione fortunatamente positiva, mentre invece in altri luoghi del mondo, dall'India all'Africa al Sud America, siamo ancora fermi a rivendicazioni e a lotte che negli Stati Uniti e in Italia sono già state affrontate 20 anni fa. Naturalmente a seconda di dove ci si è esposta, il grado della lotta politica è arrivato a conquistare fino ad un certo punto i diritti che vengono pretesi, e giustamente che sono stati conquistati finora. Però in Italia non si deve comunque assolutamente abbassare la guardia, e credo fortemente che un festival LGBTQI, un festival che parla di queste tematiche, debba rimanere un festival indipendente, perché diviene un luogo di riflessione e di ritrovo reale, concreto e di dialogo, che molto spesso non riesce ad esserci se non all'interno di micro nicchie molto divise. E quindi un festival come questo può essere un momento di grande coesione della comunità rainbow. In chiusura, ci dai i riferimenti web per la programmazione? Assolutamente. Allora, i concorsi li trovate alla voce sezioni del www.loversff.com, e anche lì stesso si possono trovare le prevendite dei biglietti. Gli accrediti sono stati chiusi una settimana fa. Benissimo. Allora, ricordiamo la 33esima edizione dell'Overs Film Festival a Torino, il Torino LGBTQI Visions, dal 20 al 24 aprile. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Irene Dionisio. Irene, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille, a presto. Siamo in compagnia di Luca Gianfrancesco, regista del documentario Terra Bruciata, il laboratorio italiano della ferocia nazista, in uscita in sala il prossimo 25 aprile. Luca, ben trovato. Salve, buonasera. Lo raccontiamo brevemente? Sì, ti volevo solo aggiungere una cosa a quello che hai già detto, che il film esce in prima nazionale domani sera a Roma, al Cinema Farnese, poi dal Cinema Farnese ricomincia dal 23, va avanti ancora per qualche giorno, e poi vabbè, dal 23 in poi comunque partiamo da Napoli, ripartiamo da Napoli, Piedimonte Matese in provincia di Caserta, e poi a salire su Firenze, Milano, Torino, Bologna, Genova, insomma siamo quasi a 20 copie in okay. questo momento, che Senti... è un record, diciamo così, per un film così piccolo è un record nazionale. Senti, do come indicazione allora il 19? Sì, il 19 domani è la prima nazionale a, okay. a Caserta. Va benissimo. A Roma, a Roma. A Roma. Si chiama Farnese. Lo racconti brevemente? Allora, il film si chiama Terra Bruciata, il sottotitolo è Il laboratorio italiano della ferocia nazista, ed è questo film che racconta di questo autunno dimenticato dalla grande storia, che è l'autunno del 1943. È un autunno in cui di fatto tutto ha inizio, e faccio riferimento nello specifico allo stragismo nazista in Italia e anche alla resistenza. Il film, come dire, viaggia su queste due direttrici principali, appunto, che sono le prime stragi naziste che avvengono in Italia, perché il territorio che va dalla provincia nord di Napoli, anche Napoli incluso chiaramente, fino ad arrivare alle pendici di Monte Cassino, che poi insomma è il luogo in cui avvenne il famoso bombardamento dell'abbazia di Monte Cassino, è il luogo in cui, come dire, i tedeschi riversano tutta la loro violenza. Dopo aver incassato, diciamo così, quello che loro intesero come un tradimento, e dopo che la città di Napoli reagisce e si ribella da sola all'occupazione tedesca, per cui quello è un momento in cui cambia l'atteggiamento delle truppe d'occupazione tedesche in Italia, quindi da alleati fino all'8 settembre diventano, diciamo, nemici, ed è appunto il momento in cui la popolazione inizia a ribellarsi, le quattro giornate di Napoli e tutta una serie di rivolte che passano per Acerra, attraversano il territorio del Casertano, per cui Capua, Santa Maria, Cagliazzo, Bellona, fino a salire su lungo le tre direttrici che sono la Casilina, l'Appia e la Domiziana, ed arrivare fino alla linea Gustav, che ha come cardine, diciamo così, l'abbazia di Monte Cassino. In questi tre mesi e mezzo avviene di tutto. Abbiamo quasi 1000 vittime causate appunto dalle rappresaglie tedesche, e abbiamo i primissimi episodi di resistenza italiani, che sono degli episodi di resistenza che chiaramente non hanno, non possono essere comparati alla resistenza che incontriamo in Italia a partire da Roma, dalle fosse ardeatine e a salire su lungo il territorio, per cui cito le più importanti, quelle più famose, che sono Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto ed altre. Non hanno, è una resistenza diversa da quella, perché è una resistenza, come dire, embrionale, non c'è stato nemmeno il tempo per poter organizzare una, come dire, una resistenza che avesse come cabina di regia i grandi partiti politici di massa, come avviene appunto nel centro-nord, ma è una resistenza che è molto importante, a mio avviso, perché appunto ci fa capire come tutto ebbe inizio, e soprattutto, diciamo così, ribalta in qualche modo o aggiorna un paradigma, no? Che è quello che la resistenza in Italia è quella che è avvenuta in Umbria, in Toscana, in Emilia e così via. E per cui forse, se posso, nel mio piccolo, nel piccolo, diciamo così, di questo film, uno degli obiettivi è quello di fare in modo che il Sud riacquisti una sua dignità. Nel senso che se si è sempre detto che nel meridione d'Italia i meridionali hanno abbassato la testa e hanno aspettato che arrivassero gli americani, no? per liberarsi, questo film, con le testimonianze, con la fiction che c'è nel film, perché il film è composto da molta fiction, con sei attori di cinema bravissimi, e con le ricostruzioni, appunto, con le ricostruzioni fatte nei luoghi in cui girate, nei luoghi in cui i fatti hanno avuto luogo, con le bellissime interviste agli storici e soprattutto ai testimoni oculari, perché poi il film è veicolato appunto da questo tessuto narrativo dire, si articola intorno a storie e personaggi che hanno vissuto realmente quei fatti, e c'è anche del materiale d'archivio in tutto ciò, e per cui tutto questo racconto si snoda su queste due linee narrative principali, appunto, che sono la fiction e la parte documentaria, per giungere a questo, come dire, a un racconto che è stato, come dire, ignorato in qualche modo, inspiegabilmente direi, dalla grande storia della Seconda Guerra Mondiale, direi dalle istituzioni anche in qualche modo. Sì. E per cui, ritornando, diciamo così, ad uno degli obiettivi del film, forse è quello che il 25 aprile, per esempio, possa diventare finalmente una festa nazionale nel vero senso della parola, non una festa, per esempio, come dire, che appannaggio appunto delle regioni del centro-nord, perché a me mi è capitato varie volte di trovarmi il 25 aprile in Umbria o in Toscana piuttosto che in Lombardia, e ci sono interi centri che vivono il 25 aprile come veramente una festa nazionale, dove si scende in piazza, si va nei luoghi in cui i fatti sono successi e si sta tutti insieme. Poi magari dopo si esce anche, si va anche a fare una campagnata, ma c'è un momento in cui quella festa è sentita veramente come una festa nazionale. Questo, ahimè, devo dire, da meridionale, perché io vivo a Roma, ma ho origini proprio in quei luoghi. Io sono nato e cresciuto, diciamo, in un piccolo paesino che si chiama Vairano Patenora, che è in provincia di Caserta, e il 25 aprile è un modo, come dire, era una festa per andare al mare, insomma, fondamentalmente, o per andare a fare una campagnata in montagna. Ecco, questo diciamo che è un po' la sintesi. Luca, come era partito il progetto e poi come ti sei mosso? Dove hai cercato materiale? Allora, il progetto è partito 5 anni fa. Io ho incontrai, dopo anni e anni in cui ci eravamo persi di vista, il professor Giuseppe Agiolone, che è uno storico, è un docente universitario, e raccontandoci un po' le nostre, diciamo, carriere, qui mi parlò di questa ricerca che stava facendo sul territorio del casertano, e mi ha iniziato a raccontare un po' di episodi, insomma, che erano interessanti. Aveva trovato tutta una serie di cose nuove che non erano ancora state scoperte, per cui mi dissi: ma andiamo a vedere, cerchiamo di capire, mi sembra strano che io non ne sappia nulla di tutta questa storia, vediamo se magari esiste una cinematografia che se ne è occupata, anche se di quello era abbastanza sicuro che non esistesse. Però andai a vedere un po', non so, nelle teche Rai, per cercare di capire se erano stati fatti documentari anche negli anni addietro, e di fatto di tutta questa storia non se ne era mai parlato. Esistono materiali sullo sbarco di Salerno, ancora prima lo sbarco in Sicilia, i 4 giornali di Napoli, e poi si fa questo salto di 50 km e si arriva direttamente a Monte Cassino. Questo piccolo territorio non era, quello che era successo in questo piccolo territorio non era mai stato raccontato, per cui lì con il professor Angiolone ci siamo detti: va bene, proviamo a vedere se riusciamo a fare un documentario per la televisione. E quindi io iniziai a scrivere, iniziai a fare ricerche, iniziamo ad incontrare i testimoni, a fare le prime interviste, ed io man mano che andavamo avanti mi accorgevo che, come dire, questo materiale diventava sempre più magmatico e corposo, soprattutto, nel senso che iniziavamo ad avere personaggi e testimoni che ci raccontavano di cose allucinanti successe sul territorio. E quindi, diciamo così, in corso d'opera il lavoro è cresciuto, ed è cresciuto ed è anche cambiato, soprattutto perché a un certo punto io ho detto: no, il documentario, diciamo, televisivo, taglio, diciamo così, visto che piuttosto che la storia, non è sufficiente per questo, come dire, questo argomento merita un film, in questo caso un docufiction o un docudrama, come si dice nei paesi anglosassoni. Per cui da lì in poi ho iniziato a riscrivere tutto il film, e per cui la forma che ha acquisito il film, che ha il film in questo momento, è appunto un oggetto un po' strano, no? È stato anche una scommessa, nel senso che è venuto fuori un oggetto per cui in alcuni momenti sembra di vedere un film vero e proprio, quindi fiction, e poi in alcuni momenti invece sentiamo i testimoni, sentiamo gli storici che fanno il punto sulla situazione e capiamo che c'è un approccio scientifico, diciamo così, alla materia che stiamo trattando. E per cui, insomma, ripeto, è stata una scommessa, nel senso che io non sapevo che cosa ne venisse fuori, poteva anche essere, diciamo così, un grande fallimento, diciamo così. Però alla fine, mettendo tutto insieme, appunto dopo 5 anni, di lavorazione, perché il film l'ho anche montato, ci ho messo un anno e mezzo per montarlo, e da quello che posso vedere anche dalle prime reazioni alle conferenze stampa sembra che, come dire, che il risultato sia stato raggiunto, nel senso che abbiamo avuto una bellissima stampa fino ad adesso, e quindi forse vale la pena di vedere questo. Senti, come riferimenti web vedo che c'è un tuo sito internet. Sì, io ho un mio sito internet che purtroppo per una mia incapacità di seguire un po' tutte le cose, perché ripeto, il film mi ha assorbito, diciamo così, 100% dell'energia, non è molto aggiornato. Però invece la cosa molto interessante è la pagina Facebook del film, per cui digitando Terra Bruciata su Facebook si trova una pagina molto bella e molto seguita, dove ci sono tutti i contenuti, ci sono tutte le immagini che abbiamo girato durante le riprese, ci sono tutti i servizi televisivi, la rassegna stampa che ci hanno fatto in 5 anni, insomma, in cui parte della stampa e delle televisioni ci hanno seguiti. Quindi direi, più che il mio sito, che vabbè è www.lucagianfrancesco.com, dove si trova un po', diciamo, della mia biografia, forse per avere notizie e curiosità sul film la pagina Facebook è più completa, in cui c'è il doppio titolo italiano in inglese. Sì, c'è il doppio titolo italiano in inglese, perché il film adesso, appena dopo l'uscita nazionale, ma ci stiamo già lavorando con l'estero, io diciamo, essendo anche un filmmaker di documentari, ho canali aperti con BDF Arte in Germania, stiamo cercando di capire se farne una versione per il mercato tedesco, per esempio, ma abbiamo anche altri contatti. Poi ovviamente il distributore è l'Istituto Luce Cinecittà, quindi con loro capiremo anche come uscire all'estero. Allora, poi ci sono i festival, chiaramente, sì, a cui parteciperemo, ma questa è una cosa che, insomma, è ancora al di là di Davide, diciamo. Allora, ricordiamo il film Terra Bruciata, il laboratorio italiano della ferocia nazista, di Luca Gianfrancesco, in uscita in sala a partire da domani, giovedì 19 aprile. Luca, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. La saluto, grazie mille a tutti. Allora, andate tutti al cinema a partire da domani 19 aprile al cinema Farnese a Roma, e poi a seguire Napoli, Caserta e molte altre città in tutta Italia. Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa, con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.